dottore, buonasera. Sì, buonasera anche a lui, caspita. Lui sì che ce ne freghiamo. Che se. Cioè, ce ne freghiamo sì. Che per cui non ci possiamo lamentare, là. Sì. Oh, Giulia. Andiamo e andiamo. Ehi, noi andiamo sempre bene, mai male. Qualche volta potrebbe anche andare male, ma già ci aggiustiamo per quello, capito? Sì, infatti, bisogna aggiustarci così. Oh, Giulia, catta il bruveni, ci mangiamo il bruveni di tuo gozo, ho messo in tutte le bande che c'ha. Ho messo quella proprio italiana e mi dà di 36 canali. Non sei riuscito a trovarlo, no? No, non me lo dà, e dipende tutto da come è stato fatto in cose. Da quando l'hanno fatto con il computer. Se metterli o non metterli. Infatti, perché c'è sotto, c'è TRX, c'è RX, c'è sotto, però non te lo dà. Sì, quando accendo mi compare tutto quanto, però non me lo dà. E questo è un coso che è stato fatto con il computer, vuol dire, e non l'hanno messo loro. Però ho provato tutte le bande e mi dà anche quella con Love, da fare anche quella lì e mi dà un watt. Perché va anche a un watt quell'apparecchio, sì. Evidentemente tu è stato messo, però non è stato agganciato, capito? Vabbè, pazienza, tu cosa devi fare? Ma niente, ormai tanto lo sai che i quadretti del volume te lo dice qua, capito? Per cui te ne accorgi che sta uscendo. E quando schiacci se ne va al massimo, se ne va. Quindi quando tieni schiacciato se ne va al massimo. Ok, ma con Roosevelt l'hai provato 4 watt precisi quando se ne va al massimo i tacchetti del volume? 4 watt precisi precisi, non sgarra di nulla. Anche questo è, no? E questo è diverso. No, questo è diverso perché l'ho abbassato, perché si può aumentare, si può diminuire questo qua. E adesso 4 watt staccato. Infatti, 4 watt, l'ho staccato io, il rosmetro, l'ho staccato. Ho staccato perché mi rendi battito, avendo il sopra. Ma almeno sono tranquillo che quando parlo io ce l'ho avanti il Rosmin e so quando sono stazionario e quando l'ho capito. Per cui io ce l'ho sempre agganciato. No, e cosa li fa? Non li fa niente, no. Se ti dà fastidio a te, vabbè, ma a me non me ne dà fastidio. Ce l'ho a fianco, sopra la scrivania, boh, e per cui sono tranquillo. Oh, questo già è abbastanza tranquillo. Poi l'ho messo in una banda, mi dava 36 canali. Forse quale banda era? Sì, boh. I2, nella banda italiana, I2, invece italiana e spagnola me ne dà 40. Giusto. Buonasera, signor Marco. Buona serata, sì, anche quello che ho io, che ho prestato, da Italia, sono 40 canali, poi I2, che sono come i 34 canali, però sono 36, cioè ti dà tipo 23 canali più o meno sopra o giù di lì, e poi gli altri canali sono sotto l'1 e sono, anzi, e sono di più dei 34 canali famosi, sono vari canali sotto, adesso non mi ricordo se siano una decina, capito? L'ho notato anch'io. Va bene, sono alla TV, mi sto guardando le crociate, dai, già ci sentiamo dopo, ciao. Ok, ciao Marco, ci sentiamo. Hai capito, John Mario? Ehi, andate così, andiamo così, andiamo. Va bene così, faccio così, mi vanno bene, è un bombo, cazzo. Come radio buona, è solo quando sto uscendo invece vedere i tizi e te ne accorgi dalla smitra che va a fondo scala, capito? Sì, però le cose quando va a fondo scala e rimane più bello, vuol dire che quello lì non lo so con cosa vada. L'ho attaccato un preamplificato, come sta andando questo apparecchietto? È sempre normale come ce l'hai sempre. Oh, non è amplificato, si sente amplificazione? No, non si sente per niente, sente soltanto che è normale come c'è la tua voce. Vediamo un po' se è aumentato adesso. No, non ha aumentato per niente. E allora hai da ragione. Allora va bene, allora batti le mezzo scarpe. Ma non amplificato. Stavo provando, dai, tanto per abbassare il tempo. Io ci ho messo quello là e poi mi dice che è bassa, ma ci compri su una cosa. Come? Avevo attaccato ieri quello da tavolo. Stavo usando quello, ma mi dice che è troppo bassa. Ah, l'ho sentita, infatti è la più bassa. Allora, questo non aumenta, ecco, non aumenta, rimane sempre normale, ecco. E il microfono più amplificato, quello manuale. Ah, la voce è chiara, la voce si sente che è chiara. Vabbè, vuol dire che ci rimetteremo il suo originale e va bene ugualmente. Già ci sentiamo, dai, per cui va bene. Stai chiudendo? No, dammi 5 minuti, siccome avevo il computer acceso e che stavo guardando una questione e adesso lo spengo, capisci? Già sono qua. E come mai mi dà errore? Oh? Buonasera. No, c'è un apparecchio che mi dà errore. No, non so perché. Adesso non più. 1, 2, 3. Stai facendo bene? Oh, non so perché. Proviamo a alzare un po'. Hola. Tutta manetta, ma sta uscendo di watt, sì. Ma non c'è un buon segnale. Come? Da me c'hai un buon segnale, niente di anomalo. Sì, ma se modulo mi dà errore. Sta troppo forte la radio. Ma non dovrebbe darlo di solito. Vediamo se parlo piano. Mi dà errore e non dovrebbe darlo. Non l'ha mai dato. Purtroppo questi apparecchietti sono interno all'otto. Guarda se parlo forte. Guarda se parlo forte. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, un po' tiene, un po' no. Spegnilo e riaccendilo. No, sarebbe inutile. Va bene. C'era Gio Maria e Torre Squalo qua. E saranno allontanati. Può darsi che l'errore può essere da tante cose, dipende da un tipo d'apparecchio che è. Raffermo un po'. Spostiamoci sul 20. Faccio due prove veloci, dai. Ok, fai chiamare. Però la potenza qua non me la fa vedere. Oh, Gianfranco. Cos'è? Una sintonia continua? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, sta andando. Marco, Ehi, sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, ma sembra che si sia stabilizzato, può darsi. Forse fermo da un po', vediamo, assorbimento circa 6 ampere, 5 ampere e mezzo, dai. Un po' troppo mi sembra. C'è stato qualcuno che ti ha chiamato. Chi è che chiama? Va bene, no? Sì. A voglia, bellissima. Ho messo il microfono su, va. Tanto non lo metta, io pensavo lo mettere, però non lo metto, già ce la battevo un po' scarsa, ma meglio qui si va, non mi interessa, me la lascio questo qua, è normale, va bene. Sì, infatti, qua, io ci ho provato quello là, però mi dice che è basso, ci ho messo la batteria ricaricabile, caricata parecchio, e dice che è basso. Ma cos'hai messo? L'MP5? Ha messo l'MP5, dovrebbe essere più alta, invece nulla da fare. Strano. Beh, dovrebbe amplificare, invece non amplifica. Ma è macchina quanto ce l'hai? Questo non è a macchina. Dovrebbe averlo, so. Tutti ce l'hai il Mike Gain, ma ci ha messo quello che c'è digitale, bisogna trovarli quando si entra nel menu. No, questo lo fa insieme al Vox, fa Vox on Gain. Ah, ecco, ho capito. Va direttamente, automaticamente. Infatti. Aspetta a vedere, guarda a vedere se si cambia qualcosa. Adesso ho attaccato il box, guarda a vedere. Fai un passaggio lungo. Guarda a vedere cosa succede. Hola. Tu lato, perfetto, sia con il microfono che con il box. Va bene. Oh, no, non so cosa dire. No, c'è differenza, ecco. No, perlomeno non l'ho notata la differenza. Fai un altro passaggio lungo. Aspetta che parlo a vedere, che parlo con il microfono, quello auricolare, a vedere se cambia qualcosa. Prova a vedere. Jean-Marie. Bella riduzione. Sì, guarda a vedere se è buono. Fai un passaggio più lungo però. Sì, 1, 2, 3, prova. Hola. Va bene, tu, no, non ce n'è differenza, è lo stesso, va bene. Sì, e qua andiamo male con il... Perché? Sì, tocca tenerlo. Come, bisogna tenerlo? Hai un culo. L'orecchio non rimane. C'è l'orecchio? Buonasera, attenzione al canale 23. Adesso già rimane. Vieni in varia, già. Infatti, basta sistemarlo bene. C'è qualcuno che chiama, avanti. Buonasera a tutti. Da questa parte di Porto Torre, scambio. Buonasera. Torre Gio Maria, avanti. Gio Maria, buonasera. Eugenio, da questa parte, capito? Sì, certo, è la parte che si sentiva. Ma se ti giro con il campo, sì. Con il camper, rientrando a casa. E dove te la trovavi oggi? Ho già capito, cioè. Dove eri oggi? Da quale zona? Ah, ero... Neuvistanese. Neuvistanese? Sì, Neuvistanese. Ehi, adesso stai ricasando. Va bene. Ti passa a Torre per i saluti. Vai, dopo, Eugenio. Buonasera, Eugenio. Ben sentito, dopo di tanto. Buonasera anche a te, Torre. Buonasera. Hai visto ogni tanto ci sentiamo così. Cazzo, va bene, va benissimo. La radio è buona, tranquillo. Dove ti trovi adesso? Adesso sono praticamente... dai, qualche chilometro prima di Città Mercato. E allora siamo anche vicini là. E ci sentiamo bene anche per quello. Bene, avanti sto. Sì, si sta viaggiando con il camper. Un buon viaggio avete fatto. Sì, sono col camper tu. Sono col camper, via, quindi in questo momento proprio in linea a Mondo Convenienza. E allora già siamo vicini. sono a neanche a 500 metri, se sei di fronte lì, neanche a 500 metri da me, sì. Ma sei in macchina o a casa? A casa. Come? A casa sono. A casa è Eugenio, a casa è... Ah, ho capito, all'inizio no, poi sì. Ma sempre col Vox sto dicendo, Tore. Sì, sto operando il Vox, tanto può fare un po' gare da trattarlo. Tu anni. Va bene, Tore. Allora senti, Uggi, con Vox sta parlando, Io, vabbè, non lo so, questo è un baracchinetto, però la sento un po' cupo. Un po' cupo la senti, forse è la ricezione tua, ma io lo sento perfettamente. Sì, è sicuramente la mia ricezione. E avanti, sto. Sì. Dove devi andare? Porto Torres o qua a Sassari? No, negativo, Porto Torres. Cara, Porto Torres direttamente. Lui abita a Porto Torres e... Meglio così, lì c'è il mare, sei più tranquillo, aria pulita. Ehi, dove stai, no? Pure un mare, avanti, tutto inquinato. Figlio oggi. Vedo di inquinato. Non ce n'è più roba brutta, e sta su casa industriale. Lo hai visto, pure oggi l'ho fatto vedere alla televisione. Cazzo, fino a poco mi hanno detto, cazzo, in spiaggia, per carità, però male, ci sono qui i volontari che stanno ripulendo tutto, cazzo. È una beffa, una zanta lei, cazzo, che dove vedere i turisti, quella sporchizia. Lì che siamo sporchi veramente, amico. Sì. Perché non la raccolgo? Allora, quando si ha semmare, si porta via tutto e siamo sempre lì. Cazzo, perché non la ritirano? Ecco cos'è la sporchizia, per carità, cazzo. A che punto stiamo arrivando, cazzo? Gli altri giochi mangiano e tutto il regge della sabbia, Allora, che mi dicevo, chi si vuole i biliardi a cappelli, una bella craccata di multa, cazzo, sta la massa in parani, a essere puliti, a buttarli gli avanti, la sporchezza nei contenitori, cazzo. Ma siamo arrivati, solo in tre, ma non c'è più nessuno tra questa. Un posto di ferie, sì, un po' ce ne sono andati in ferie, noi non abbiamo soldi a andare in ferie e per cui ci tocca rimanere qua, siamo poveri proprio terra a terra noi. Ah, così, ma non c'è più nessuno da Cire. Grazie, ecco, ogni tanto entra, ma non è più in voga come prima, capito? Ha calato parecchio, ecco. Macchina per dire, non ci sono più i camionisti, non è senso, qua fu non è senso, solo a continente, ma qua in Sardegna evidentemente hanno il telefonino, adesso comunico col telefonino e non hanno problemi, capito? Adesso nel campere mi sembra che stiamo usando anche il PMR, mi sembra, il PMR, va bene, il campere conviene quello lì, è meglio della 27, tra di forti o meno, dai, è una rada più pulita, dai. Allora, buon rientro a casa, ci sentiamo, buon proseguimento di serata, dai. Saluto in casa, vai Tom. Sì, ok, ciao G, stammi bene. Buon proseguimento. Stai andando sempre bene. Ripeto, che cuffa magari, io ti sento bene, io. Magari qualcuno si sente anche più ti occupo perché magari c'è la risveglia, la ricezione diversa, perché da un baracchino all'altro cambia la ricezione. Lo so, adesso l'ho staccato, perché mi era venuto giù dall'Arezzo. Va bene, va bene. In macchina devi provare, ma mi sembra in macchina abbiamo provato o no? Ma in macchina ancora non l'ho provato, ho provato 5 minuti così e boh. Va bene così, va bene anche in macchina, va bene Tore. l'apparecchietto bello, si attacca a me, si attacca a me, però magari io preferisco il frequency metterlo orizzontale, non verticale, capito? Perché sennò lo farei già preso a quello lì, ma non mi fa. Se piace quell'altro l'ho preso, guarda, quello è troppo bello, vai. Certo. Il presidente Parri è troppo bello, guarda. Lo so. Lo so, è bellissimo, però. Io dovevo avere qualcosa per non adoperare il microfono in mano, che si sta acciappando, cavoli amari. Come il telefono. Adesso siamo a legge, ti serve ancora qui nel baracchino, col telefono, che parlando al telefono, camminando. E bisogna stare molto attenti perché se ti beccano, sto cavolo amara, hanno aumentato la penalità. Allora, se ti trovano che sei parlando col telefonino sono 1.000 euro di multa. Invece se causi un incidente c'è un anno di cosa, te ne sequestrano macchine, patente, e più ti vai, secondo che quanto è grave, ti fai un anno dentro. Già, infatti, quando si squilla il telefono, lo lascio squillare, siamo tutti a posto per parcheggiare, e oltre per noi si fermi, insomma, e basta. Lasci suonare, quando trovi il parcheggio ti fermi e basta. Allora conviene, non conviene mentre sta guidando uno. Sì che ce ne sono, anche donne, parecchi, parecchi, io le vedo tutti i giorni, che li finiscono guidando. Casomai non penso che se li trovano, cazzo, sto capo di loro. Ce l'ho trovata ieri mattina, una ragazza. Vedendo al telefono e camminando piano piano, di adesso si filmava. All'ultimo la giorno passata mi sono filmato e ha detto, se lo vuoi mollare il telefono è buono, sennò guarda ci sono i carabinieri che stanno venendo. Ti becchi la multa di 1.000 euro a giudizio, se ti va bene. Qua c'è gente che deve andare a lavorare a giudizio. Ma ci filmato a brutti ora. Ma certo bisogna a tirare le orecchie quando si vedono. In modo che devono capire queste cose, perché si crea molti incidenti anche in causa del telefono, sai? Infatti, questa qua si fermava, andava, accelerava, allora riuscì a sorpassare la giovemma della gente, se dovemmo fare delle cose a gettare come dai giugli al telefono, ti fermi, vai avanti, ti dire cose, ha detto a me, guarda, stanno solo nel carabinieri, adesso fermo il carabinieri e ti faccio fare la multa, la giudice. C'è assusciata. Già l'ha mollata dopo. L'ha mollato così, ha domandato scusa e l'ha mollato. No, ma bisogna fare così, bisogna dire, lascia il telefono, la faccia e vai dritto. Certo. Solo ti sei cazzetti, se cosa cacciati. Di tutto da voi fare la ragione, capito? Sì, aggiunta, è una vicina, io credo che c'è di amari, invece era un telefono, era che non si vedeva un telefono, e invece era un telefono, sì, questa gente nei droni, insomma lì. Data va. E non basta che ci aveva fatto, altro burro devi va. Ma ha imbruttato la macchina, ma ha imbruttato. Perché si è in campagna stasera, sembrava che, non, che era bello, invece si è in campagna dopo 5 minuti ha cominciato a piovere e la macchina me l'ha fatta beffa, era franco che era bene. E infatti, si è appena me l'ha sbullita, rimani, sta vedda, lucidata. Ma si è fatta me fare andare aria oggi. Non lo va fatto, era abbiamo fatto il piazzai, quello dentro, cazzo così che con la punta dentro, cazzo. Devo andare a offre, se me ne ha messo domani, basta l'offre mi serve. Quella cucchietta che c'è sulle masse, che è tutta sbucciata, sì, è poco brutta, sembra una cucchietta di 50 anni fa, cazzo. Avanti, ma che fa? Si lascia un po' me la pico, cazzo, ma qua è nuova, cazzo. Stava sentendo i drunelli, deve essere drunelli in lontananza, però, sentendo. La base di la dire, deve darsi. Stalocca ha messo acqua, Stalocca, domani no, ma stalocca ha messo acqua. E peggio baedda. Ah, stiamo a fare, sto, a fare. Ah, si scappa già cresciuta lei, ma un bene, cazzo, scusa. Tanto è cresciuta lei, papà mi tocca tornare a tagliarla, cazzo. Un bel crescendo va. Avanno la femminile se la dagli lei, papà. A chi va si incrocia e chiama la fiore, come cavolo si chiama? Sì, il fiore, oh sì, no, come cresce un po', poi toglie il fiore e si secca. Pure il grugano che fa si secca. Spero bisogna tagliarla, ma era venuta lì alla fine di questa che entra. Cazzo, tira, si fa, due. Io riuso, io domani. Me la posso, me la pure, no. Ma se da poi si cade dura e più bene più male a tagliare, perché quando è fresca taglia subito, cazzo, il pao. Infatti è così, ma tu visto che tronendo un bel tronendo, che età, ma ogni tanto ci intendi a caricare i pugni pure. Un attimo, chi sta chiamando? Io sono qua. La partita che ero sta di Luciano, in quella zona, però sta di Luciano a fare l'aria, perché piove. Si vede, anche non ha caricato pure i nomi, ha caricato, certo. La macchina viene ad Eva. Infatti è molto di niente, va arriva io che buio. Perché, sei brava, e a farti bene l'Eva, che dove fatti sempre bene. Non ha tutto, fatti bene, però, cosa puoi fare? Vedi qui si arriva, se non è il siamo male. Infatti. Ah, io venendo in abbondanza, va Eva. Non è mai troppo, non è mai troppo sto. Vabbè, pazienza. Ma già ne abbiamo di acqua adesso, ce n'è in abbondanza pure. Ma, vedo che si sia, anche quando è secco la questione è seria, capito? Però ogni tanto se non mi sapeva, scatta, accorti un lungo, se si faccia avanti un lungo, non è di così, ma ne la giamba ancora una serra cinesca, ma ne la giamba ancora. Ancora. Va, il ricchio va a fare il travaglio, capito? E poi il ricchio c'è per un bar, già se va. Sì, certo, quello lì, che sono cose che devono chiudere da una parte che è cambiarla in fretta, quella ci mettono poco a cambiarla. Fai tutta, l'ha fatto Mussolini, intanto l'impianto idrico, coppia cantanie, certo, la Lucrezia, chi si gallerini fa da cosa, da bulla, il paese tra i sassari, c'è una galleria che non finì più, e bisogna tutti i dubbi frasichi. Arriva il temporale. Ah, Fucizzini, gli ha fatto una baracca tra il tuo casa, Marco. Io no però. Gio Maria, qual è il segnale? Buono? 1, 2, 3, 4, 5. Va bene, 9, 40, sì, tranquillo. Sto sentendo tuoni sempre più forti, sta arrivando dal Ghero questa buriana, infatti fra poco appena piove stacco tutto, dai, io sono all'ascolto, cioè, riprendete, dai, sto usando un altro baracchino. Paura c'hai, i tuoni, davvero, non ho paura io, non l'ho mai distaccato, capito? Potrei staccare perché c'è un deviatore che basta mettere in centro e non va né a nessuna antenna, a nessun baracchino, capito? Rimane neutro. Per cui non lo distacco mai. No, io temo perché il palazzo ancora non ha, come che si dice, non ha la messa a terra, capito? Non mi fido. Io la fai tu una massa a me, Marco. Io ci ho messo la massa, me la sono fatto io per avere una massa più perfetta. c'è già la massa degli impianti, perché il nostro è stato, l'impianto è stato fatto pochi anni fa, però non bastava, allora me ne ho messo uno io. Ho messo quel capo giallo ed è tutto a massa. Ehi, le sentite i tuoni? Caspita, mamma mia. Avete parlato in due, vai Tore. Sì, certo, ma veramente la fulmine, la carica. Io sono mezzo sordo io, Questa vecchiaia sto diventando sordo, Marco. Vabbè, io mezzo cieco e quindi... Adesso domani vediamo cosa mi dice, mi dà referto della risonanza magnetica per gli occhi, mamma mia, sto già temendomi. Sì, io sono stato operato tutti gli occhi alla cataratta, però il gesto ce l'ho sempre lacrimando, sempre, mi dà fastidio. Però la meraviglia mia è un'altra, mi metto un paio di occhiali da sole e mi calmano le lacrime. E tolgo gli occhiali, caspita, a sole senza occhiali non ci vedo. Però anche dentro casa sto costretto a rimanere con questi occhiali, perché se no mi lacrima sempre, capito? Ma l'ho detto, dice che purtroppo è così, dice, metti queste gocce, cazzo, hai messo tanto di queste gocce, non hai idea, è sempre lo stesso. Vuol dire che ti dà fastidio la luce. Senti lacrima e poi ti calma con gli occhiali da sole. Sta iniziando a piovere qua, dai, vi saluto, ciao. Che acqua ti entra? Come? Cosa ti entra l'acqua se piove? No, ma sono allergico ai fulmini, capito? Sì, ho molta paura dei fulmini. Non si deve avere mai paura dei fulmini, hai capito? Adesso ho sentito anch'io, Adesso ho sentito anch'io. Ehi, sì, io sento piovere qua, sento... Si sente anche nel baracchino quando piove forte. Pensa a quella mengera che c'è a Platamona lì buttata sulla panchina, come fa a vivere in quelle condizioni? Boh. Marco, tu sei fulminato da quando sei nato. Oh, ciao. Bene entrato. Già lo so, fulminato già sono, ma non voglio rifulminarmi. Ciao Marco, ciao Sore, ciao anche a Gio Maria, buonasera a tutti e tre. Avanti Gio Maria. Ehi, buonasera, ben entrato. Da tanto non ci facevamo, A casa oggi sì, tranquillo, riposando. QRT esecutivo, ciao. Ciao Marco. QRT esecutivo, ciao. Ciao. Paura, c'ha paura, per carità, che c'è le lampi e i suoni, cazzo, questo qua. Hai te. Vai Fabri. Marco, rimani qua, cosa sai andare, cosa vuoi andare via, boh, i fulmini. Perché teme il fulmine, cosa vuoi fare? Certo, ma non siamo tutti coraggiosi, no? Grazie al leone, no, i fulmini. Tu dimmi cosa vorremmo fare noi, certo. Noi siamo tutti forti, no? Ma vero Gio Mari? Cosa è tutto? Dite che noi siamo tutti forti per questi fulmini. Ma Marco è debole per i fulmini. E per cui si è ritirato da là e si è distaccato tutto. Anche tu Fabri. Lo devo staccare. Sentito dice che ha paura dei fumi dei suoni, Marco. Non capito, io dormivo con la luce accesa, ho capito la paura. Ma quasi sono forti, magari sono vicini, vabbè, conviene sempre distaccare, ma quando sono un po' lontano non c'è bisogno, va. Sapendo la porta torre, sta salendo il casino, la zona lì, per la torre Alghero. E Alghero sta diluviando, ho visto poco fa, da parte Alghero adesso verso Villanova, quelle zone, e anche a Usini, quelle zone sta piovendo forte. La porta sta diluviando, capisci, la porta dice che sta diluviando, e l'ha allagato tutto il mare. Però era male, ha visto le bombe. Addio Dallu, Lumare, ciao, hai inteso a Fabrizio. Sì, senza che cagge in mare, l'ho fatto nulla. L'importante è che non fare a forti nomi. No, se fa forte fa casino, no, non è fa. Capito? Ora, guarda la scusi di modulazione. Guarda, dove si trova? Di modulazione, come la radio? V10 e radio 5 perfetta, buona. E te da chi? Mi da chi? Gio Mari. Per Gio è così, vai. 9.10, 9.12, va. Vabbè. Bene, era a chiudi, aveva detto lo faceva fa, ma stasera è azzeccato. Certo, va detto, era detto che stanotte pioveva, per cui lasciamolo fare. Tu pensa che il mese di maggio è stato, così dicono gli esperti, era più di 100 anni che non faceva tutta quest'acqua in maggio. Ehi, le ha fatto, ma non è proprio esatta, magari sui paesi verso Bonorra e Orisano e Cagliari l'ha mitragliata quest'anno, ma qua non è che le ha fatto, sì le ha fatto, ma non tanto come quelle zone, capisci? Ma io ti sei in generale, no? Dicono che l'acqua che ha fatto in questo mese era 100 anni che non la faceva, capito? Infatti è stato un maggio buono perché diciamo così ha eliminato tutti i problemi dell'acqua, i bacini sono pieni, le campagne hanno tirato l'acqua, anche se in molti casi ha rovinato tipo le ciliegie, però non si può avere tutto, no? Avanti tu. Infatti, a parte di buon anno, quelli ha rovinato un sacco di alberi di ciliegio, sono andati in Noramara. Vabbè, purtroppo, però in altro caso quest'acqua ha fatto una lavigna, capito? Perché io avevo la vigna da me, le ciliegie, non anni non avevo una cosa del genere, tutta la frassa che ha messo quest'anno è impressionante, e se tiene tutto quello che c'ha è meglio dell'anno scorso, ma meglio di tanto, capito? Però a molte cose fa bene, a molte cose fa male, allora ragazzi lui va. Avanti, Giovanni. Una comanda a Salvatore, comanda, capisci? Cicché fate che si deve fare in piazza, che noi pure siamo a controllo. Solo di Murretta e per cui facciamo tu suio e la stiamo a fare, ma ci piace in forza. Se io faccio la baracca tra il tuo casa. Allora, poi invece guarda come si chiama, a Marco Condo. Adesso secondo me lui gli ha detto un attacco di cussi, no? È entrato in bagno veloce. Addirittura. Cazzo, che li porti a cussi? Allora, e tu gli fanno così, a cussi lo fa. Marco, vero è? Ha attaccato tutto, ha messo tutto sotto il materasso. C'ha la testa senza coperta adesso, per il fumo e per i ciuri. A che punto siamo arrivati, cazzore? Cosa vi potremmo fare noi? Perché non di me non mi posso fare nulla. Purtroppo, anche lui non è coraggioso. Voleva tutta notte a galla e un pesce sotteva. Andiamo, poi andiamo. E campagno non si è sentito? No, nulla abbiamo sentito. Magari in campagna stiamo affiando. È dentro lui, si sta compreso col telone, cazzo, dentro la serra, e lì non c'è piove, capito? Adesso sta piovendo sotto, cazzo, alla tenda e non esce finché non calma l'acqua. No, secondo me sta coprendo tutte le zucchine, sembra che si bagnino, capito? Può darsi pure che si è comprato le zucchine, chi ne sa? Cazzo, lo stia incassettando per andare a buscare qualche soldino. No, le sta coprendo, secondo me le sta coprendo, le zucchine da melanzana, sembra che le mani. Ah, c'ha la serra lui c'ha tutta la serra, e uia, è tutto dentro c'ha. Ah, sì, allora già fa bene, non si bagna. E te l'ha detto, a lui non gli tocca nemmeno l'acqua, se va sotto dentro la serra non gli tocca l'acqua, capito? Perché lui le toglie e le mette in cassetta e quando calma l'acqua carica la macchina e le porta a fare i soldi. Dove le porta? Lì al fine le porta, otto. Ah boh, no, non lo so io cosa dopo le porta, non so nulla di quello io. Io sono neutro. Allora, magari il cazzo lo porta al fine, cioè cazzo. Lo porta al fine, cazzo. Cioè il campanello. Venite a prendermi la roba da mangiare. Non credo che faccia così, no. Sarà forse la luce, senz'altro. Oh, so a chi sia, so anche darci pure che vado direttamente a prendersela. Non lo so, bisogna chiedere quando si sente. Ah, secondo me lui le porta gli alpine, dove sono i negretti, capito? Venite, vi faccio un regalo. Cazzo, tu stai in banda a chi si chiatta, lo grido, cazzo. A bocca di là, io non battere mai in casa, arriverà, vi devo di sempre. Allora, è così, però ti senti, quella notte a posto, i soldi a go-go, chi ce li ha? Signor Gianmari, deve essere finito, no, che deve fare, va. Altro che sta facendo, dai. E no, che dai, fuggi così appena e basta. Basta la pausa e fede. Se non ne fate di più e peggio. Si vede verso giù, verso il mare, è ancora scuro. Cazzo, in giugno, cazzo, ci ha sempre vedeva, cazzo. Ogni tanto una barriata, che il terreno è fresco ancora, è morbido, per cui l'erba sta crescendo a rotta di collo. Sì, infatti quest'anno, l'erba di quest'anno è mai vista, perché purtroppo è così. Più fa acqua e più c'è da mangiare per l'erba. E come le piante, lì? Se le nappi il frutto ingrossa, se non le nappi c'è siccità, la pesca rimane a metà, piccolina raffitica. Ah va, mi piglio un aiuto, mi piglio, e mi sbocci in campagna, lo manco, lo vedi se andavo con il spugliatore a tagliare l'erba, me ne mangia l'aino. Pure un paio di pecore, è così, un paio di pecore. Anche, ma no, c'era un tempo che c'era un pastore vicino, entravano tutti quei pezzi, no? Da me non sono mai entrati perché è chiuso, però se dovessi tornare gli farei entrare ben volentieri dentro, almeno si mangia tutta l'erba e non c'è bisogno di tagliarle. Allora, così mi ha fatto, capito? E poi il bello, mangia e caga, quindi mangia e cucina. L'erba è tutta arzotto, lo sai? L'erba è tutto concime, è arzotto, per cui infatti quando io la taglio non ne raccolgo mai. Io taglio, lascio in terra, dopo che è tutta bella secca, faccio con il coltivatore e l'altro rioleggio ed è tutto arzotto quello lì, capito? Come faccio io? Lo faccio così. Bene, riprendo. Sì, basta. Sono sentito in un paese cosa hanno fatto, hanno assunto un gregge di pecore per pulire tutti i prati. Ah, quello è, ha fatto gli scherzi, quelle cose lì, adesso lo voglio fare altro, ma così, ma quella storia lì, anzitutto ti danno per il culo, ma quella storia degli animali, delle pecore, cazzo, lo fanno da tantissimi anni nei paesi dell'est, capito? Entrano, cazzo, giustamente le controllano le pecore, non le lasci uscire. Le controllano le cacche, appena si mangiano tutto, poi passa quelle e ne raccoglie la cacca, quello del comune, e poi quella cacca la usano per concimare le piante e i giardini della città. Infatti, ed è così, se si deve fare così, quando non bastano per tagliare l'erba, allora si le pone a mettere le pecore, metti. E l'ho visto, l'ho fatto vedere la televisione, un parco, si è stato messo un bel di pecore, così che se la mangiano, ma poi passi giù con la cacca quelli sotto i piedi. A parte che è così, guarda, io l'ho visto fare tantissimi anni fa una cosa del genere. Sai, proprio quando in Italia fanno una cosa, negli altri paesi, l'hanno fatta già da 10-15 anni fa, l'ho visto, è stato tipo le pecore, tutto bene, giustamente controllate. Poi dentro le pecore hanno finito di mangiare, passano i due tre del comune, con le palettine tutto a regolare, con le guante, roba del genere, con il sacco, la carriola, raccogliamo tutta la cacca delle pecore. E poi quella cacca lì che è concime, la utilizzavano per concimare tutti i giardini della città e del paese. Ah, ti immagini so, che il sindaco di Sassere chiama il pastore e fa portare le pecore ai prati qua per non tagliare l'erba. Ha visto il sindaco di Sassere, mi pare che sia uno che non fanno da, perché doveva aggiustare le strade e non ha conto nulla, capito? Bisogna vedere i garri che sono tutti fasciati, fosse che non hanno le cose e poi in piccoli. Ma ho compreso che no, che più che tagliare i baguri di trattore non facile. È così, però la cosa queste città purtroppo sono da soli, capito? Praticamente la nazione è fallita. Poi da quando c'è l'euro ancora peggio, perché ti costano loro dall'Europa e ti muovi sempre la corda al collo, capito? Non è come quello che c'ha la sua moneta, se la gestisce la stampa, fai quello che vuole. Ma quando sei sotto il dominio degli altri, e io gli trino, dopo l'euro, dopo la lira, è successo il casino, perché loro ti controllano, nessuno c'è la tua moneta e devi stare le loro regole, capito? Ecco perché lì se tu sei sempre senza soldi e non ce n'è, e sì, e molla. Infatti è così. Purtroppo Prodi non ha fatto altro che fa entrare nell'euro e nell'euro ci siamo arruinati. È normale, ci siamo arruinati perché hanno svalutato la lira a favore del Marco. Il Marco Tosco era forte. Lui negli anni i governi non hanno controllato tutti i prezzi che hanno raddoppiato i prezzi, capito? Hanno raddoppiato i prezzi, gli si prende le pensioni, sono rimaste le stesse, quindi automaticamente hai perso almeno il 50% del potere d'acquisto. Perché un operaio che guadagnava 2 milioni di lire, non erano tutti quanti gli operai guadagnavano 2 milioni di lire, stavano benissimo, erano bella famiglia, mettevano su lire a parte, adesso con 1.050 euro se la sale da solo. Ed è così. Ed è così, e purtroppo adesso che bisogna fare, l'unica cosa è aumentare i stipendi, pensioni e tutto quanto. Tu pensa, adesso per fare tutto come la prima nel 2001, prima dell'euro, dovesse raddoppiare tutte le pensioni e gli stipendi, allora hai riporti il potere d'acquisto come era nel 2001. Però cosa dicono? Non ci sono soldi, ecco la parola di consiglio, non ci sono soldi, non ci sono soldi, capito? Ma se questo governo lo potrebbe fare, abbassare quelli che sono su a prendere 20.000 euro, 30.000 euro, quelli dovrebbero abbassare a portarli a 3.500 euro, a portare su le pensioni come tutti quanti gli altri. Se vogliono lavorare così, se no se ne andano a casa. Ma adesso bisogna lasciarli fare, adesso tutti quanti li stiamo criticando, la finita, la salute, no? È come la di Roma, ti capisco, dopo 40 anni hanno disintegrato quella città, stati 13 miliardi, cioè 13 miliardi di debiti, col cappino non lo fai da oggi a domani a mettere sistemare tutto quanto, fare le gare, non come prima, no? Che danno tutti gli amici, tutte le corruzioni. Quando tu 40 anni di Mago Vena, non è che lo fai pochi mesi, no? Tanto non è magari, per fare quella lì ci vuole un dittatore, presi e messi al muro, ma tu ti ci vuole il suo tempo, giustamente, dopo 40 anni di casino, lo metti 2 giorni. Altro che se il governo è lottare per le pensioni, le vitalizie, la fa fare, hanno 5 anni di tempo, poi lo notifica, no, dopo di ti senti i giornalisti, tutti quei di sinistra, tutti stati attaccando, una fama, libato, ma è incredibile. L'unica cosa che dovrebbero fare è portare tutto a un certo livello. Di Maio ha detto che piglia 3.500 euro. E così dovrebbero prendere tutti quanti gli altri, tutti quanti, senatori e cantuvinne. Allora tu pensa che loro l'hanno fatto, però tutti quelli di sinistra, tutti gli altri mi scritto, è vero, cazzatone è una cazzata, perché è vero, perché loro ormai sanno il fondo che loro hanno fatto, è veritiero. Però purtroppo quelli che hanno disintegrato questa nazione vanno a rompere i coglioni da questi qua, capito? Questi qua non potranno mai fare il peggio che hanno fatto quella gente lì, disintegrato, una nazione fallita. Avanti, giornalista. È un attimo che sto gente, rientro subito. E lasciamo qua. È così, perché dopo 40-50 anni di Mago Verna, opere, qualsiasi opera in Italia costa 3-4 volte di più delle altre nazioni, strade che dove si mangiano, dove permettono a salire le aziende dopo 3-4, 2 mesi, un mese, che è dato l'assalto per un'altra, guarda la Budi, 20 anni, basta a 8 km di strada, capito? Un'altra nazione l'avrebbe fatto in un anno, 8 km, un anno. purtroppo è troppo magnazzumini, ecco cosa è, troppo magnazzumini, e devono finire tutte queste cose. Infatti adesso dice che hanno ripreso a fare il pezzo della Budivudi, dice che ci mettono 6 mesi a farlo, boh, chissà. Lì c'è quel pezzo lì che spesso non finiva, però il contatto è il comune, capito? La provincia ha finito, adesso quel pezzo da dove ha passato la chiesetta da Platanona dove c'è il ciclo, da quel pezzo lì passa la chiesa fino a arrivare a Grattiera, quel pezzo lì è tutto del comune, ma secondo te può fare manco un chilometro da 6 mesi, e poi lì non c'è un cazzo di luce, devi solo allargare, asfaltare, non è come là che c'è le luce, lì è normale, è chiuso di 6 mesi, è incredibile. Signor Bacchi, buonasera anche a lui. Vabbè, riprenda, se la riprenda, signor Bacchi. Buonasera, signor Tore, buonasera Fabrizio, se non sbaglio mi sembra che era lui. Ok, con la pioggia state a Baracchino, non si più quando non si piove, non si parla più, se no la pioggia non viene. Avanti che Fabrizio. Ciao Bacchi, c'è anche Gio Maria in Querezio, che lo prende subito. È così, capito? Infatti noi eravamo preoccupati, ma c'è anche Gio Maria a casa in Campania a coprire le melanzane, se no si bagna. Ah, ecco. Ci voleva un po' di pioggia, adesso era molto che non pioveva. Sì, già fa bene, ha capitato, ha fatto un mese buono, capito? Gio Maria. Ma dire una cosa, la cosa di metti alle zucchine per non bagnarli, lo metti impermeabile e lo metti il cacchio ombrese. Sì, no, la terra è bagnata sotto, è fango. È fango. Sopra è dura, è sotto è fango. Perché stamattina mi sono messo a togliere una cacchia di patate e bisogna cercare in mezzo al fango la patata. Sì, anche da noi, lo stesso da noi, ma per la sera non ha fatto il ciclo di sole, magari 2 dita la posseggiata, ma sotto come figlia d'acqua era ancora bagnata, rimane tutto la sera attaccata alla casa, è bagnatissima, capito? Infatti l'altro giorno è lavorata, l'uso, capito? Ma vabbè, mi ha fatto un bel dolore. Fatto, ne ha fatto ancora, ne voleva fare, no? L'estate sta finendo, non è che l'estate è avanti to. Sì, va. Sono a Boiva del Biggio. Oh, signor Bacchi, qualcosa per l'antenna io l'ho trovato in internet. La basetta? Sì, la basetta con il piano per attaccare la macchina con la calamita, è compreso, insieme a quello. Costa 19,90 €. Che comprare l'antenna completa, poi? Conviene comprare l'antenna completa, costa di meno. E quello sì, ho tutto basetto e tutto canto. Compri l'antenna ti hanno già la basetta, e quindi, non so, sulle 30, e non fare del genere, ci vedeva. 32 euro era. Un'antenna per la macchina con la basetta in calamita, la calamita. Ma la 27? Sì, però è lunga 56 centimetri. Ah, capito. Bene, avanti, Bacchi. Lunga piacerò, 1,50 la Lem, oppure la Turbo, sono tutte e due. Diciamo che la basetta, la calamita che ho, è 20 centimetri. E quando si attacca la carrozzeria bisogna essere in due uomini per staccarla, non si rubrisce la cacanina. E dunque quella graffia, è troppo forte. Troppo forte, si stacca anche la cornice. Perché la carrozzeria si stacca. Tu pensa che poco fa c'era anche Marco Cono, ha chiuso voce perché teme i funi. Scusa. Ha attaccato tutto, ha messo tutto sotto il materasso. Non li può usare. E i funi li teme, non dire, ha paura. Non si riesce a mangiare. Anche tu. Anche tu, hai sposato quella notte con la baggio a cella. Per avere poi compagnia. Un gatto si porta a casa. Sì, vabbè, è una femmina. Anche tu conosci? Ah, almeno è una ragazza, no, è cazzo, è una gatta che butti. Caduto il Fabrizio. E quello è andato a dormire con sangue. Allora, è così, caro Bacchisio. L'altro l'ha fatto questa mese di maggio, la più di cent'anni non è faccella. Ha fatto tutto così in testa, la mese di maggio. io. Lasciamo fare. Come? Svegliato di sì. Sì, dormire. Io che dormire. Dopo andiamo, continuiamo così. Con cucciuccio di sì. Mi c'era di no, che è coccato, mi ha terrorizzato, in longo, via da Edo. Da chi? Avevamo una scommessa, l'ha fatto. Io devo stare insegnando che tu non raccogli tutti i tuoi frutti della tua campagna. Loro che li porti a, come si chiama, al pino. No, ho capito. L'ultimo passaggio non riuscivo a capirlo. Aspetta, io abbasso qua. Ho detto, è vero che tu quando raccogli tutti i tuoi frutti dalla campagna, la carichi in macchina e poi li porti lì al pino, è vero? Che cosa? Al pino, li porti a che una parte li svegli, una parte li regali al pino, è vero? Puro. Io sei cazzo però sto caricando lì, sono aiutato anche in Grecia a scaricare la macchina. Puro non lo mangio lui. Mi sei dato giù fino, il tutto dicevi là, il cieli fuori. Io ho portato anche i carciofi, vero? Sì, i carciofi li posso dare, non è che pensate che non lo faccio. Andare, pensi adesso c'è signor Gio Maria sta per te. Perché c'è gente in casa sua, è arrivata gente. Oh yeah, così è, caro Battiglio, se tutto va bene siamo arruinati. Adesso ho toccato le cuffie, vedo un po' se ti ascolto meglio. Non ascolti. Hanno attaccato le colonne per le piccate, era troppo forte. Io da qua passato, dai, come la corsi con la fiamma? Va bene, no, io qua l'ho criticato un po' troppo, dunque andavo a saturo. Ma cosa c'hai tu lì, le casse, quelle della discoteca? Le casse della discoteca, cioè. E quelle lì, le ho tolte dalla discoteca, io l'ultimo furto che ho fatto, e non ho portate qua. Quelle grandi, cioè, quelle da parco? Sì, è quello che ci hanno fatto per l'hotel nel cassone. Oh yeah, Toro, riprenditela. Signor Bacchi, non mi fossi a ridire. Mi ridere, c'è da piangere. Rimbombano i truppo, no. Gira. Fase numero di vibrazioni. Infatti io lo sento da qua. La casa mia lo sento dopo a lui. Sento, quando parli tu io ti sento, capito? Sì. Ma sono con quelle casse che ci hanno attaccato l'altro giorno, non so. Quelle due lì stavano in funzione, però Fabrizio va a amplificare il subito. Sì. Tu stacca l'amplificazione e metti normale. Sì, adesso mi sono normale. Le cuffie ci ho messo. E invece Bacco c'ha l'uve e ho dovuto abbassare. Troppo forte Fabrizio, devo arrivare forte. Noi siamo con lo schiaffo della porta. Vabbè, dai, ci ho abbassato. Se no, se c'è un indicatore, non sa cosa c'è là. Ecco, questa è la volazione, l'ho abbassata. Vabbè, com'è adesso? Sì, va bene. Come segnale sui 9.30? Vabbè, siamo vicini, la modulazione, faccio la modulazione abbastanza. Di più chiara, come è la più complessa? Non è così solo. Adesso l'ascolto meglio anche, l'ascolto di poco fa. Vabbè, devi fare con il microfono a manetta, non se l'ascolto. Vabbè, adesso è a posto là. Ecco, è lui, Certo le distanze, quando beveva. Allora, Tore, stamattina non so se è al mare, se ne può fare un colpo di sonno. Allora, lui sta bevendo. Si ci riesce acciucciando. È così, io mi faccio con lui, ti chiudo e devo uscire a fare una commissione. E quindi è così, l'acqua di appena con la salamandra, purtroppo non possiamo decidere niente. Ma siamo la sola comando. Allora, capito. Però l'importante è che faccia tranquilla. Non vogliono fare tutte le bombe d'acqua e fa casino. Quella no. questo qui è nella piano. L'ho fatto un po' di vino, la garage a casa l'ho fatta a beffa. Ma di conto, sono salito a campagna, sono un po' di mobile, tutto asciutto. Giro la sigla per andare in Piazza Bianchi dove c'è la garage. Stava a parlare più un po'. Posteggio, più no? L'ombrello non lo prendo perché ci sono quattro gocce, faccio 50 metri, mi viene a caricare da leva, mi ha fatto un po' di vino, arrivo a casa e lo stavo piovendo. Ha fatto luci, infatti c'era il cielo era brutto verso il mare, si è sotto la clarizia. Ha fatto un po' di vino, poi vabbè, ha vinto lui stavolta, ma la prossima mi compro l'ombrello. Avanti so. Sì, te l'ho detto, portati l'ombrello, deve guardare il sole e togliere l'ombrello. No, non è che dell'ombrello. Ti ha detto, vai, se ti racconto io. E così è. Bisogna andare tutti bagnati. È così. Vado da, io chiudo così, guarda per questa commissione. Ci sentiamo, ciao Bacisio, ciao Sole, ciao Gio Maria e a tutti quelli che sono ascolto. Io penso che siamo pochi. Ci sentiamo, buona serata a tutti, avanti, da qui. Ciao Fabrizio, buona serata, saluto a Mario e la signora. A risentirci alla prossima, ciao ciao, buona festa greca. Avanti Sole. Sì, ciao Fabrizio, ci sentiamo alle prossime, dai. E buona serata, ok, ciao. Riprendi, baci. Sì, ma Marino, sentito si è. Vai là in Tigio. Non te ne è capottata, ma dovrebbe arrivare lo stesso con l'antenna capottata qua su. Ma è capottata nel nulla, è già 4 giorni che non lo sento. Sì, l'antenna è la coricata che stiamo lavorando, facendo il lavoro in casa, c'è gli operai, e dunque dava fastidio, l'antenna dava fastidio. E l'ha spostata, l'ha messa sul tetto coricata, e a dormire. Sì, allora è meglio che aspetti un altro paio di giorni e se la mette a posto. Infatti, se domani non piove finiranno gli operai, non so. Sì, infatti. Aspetta un altro paio di giorni, il rabbone è a punto, così al manco è a punto. Sì, sì, il pio sente la voce. Capo Anzola c'è la gamma dalla cosa, va e torna. Torna a correre me forte. Entrambi correndo veramente. Sto cominciando il nuovo? Sì, c'ho sempre il nuovo attaccato. E io stavo cercando il coso di TX e RX, stavo cercando il coso che ti esce, invece no, non ce n'è nessun coso. Ti appare all'inizio quando accende e poi sparisce. Infatti non rimane acceso. Questo è una cosa che mi segna, quello. Questo mi segna solo quando parlando io. E poi Ma questo dovrebbe accendersi quando parlo e RX quando ricevo, invece non ve né uno né l'altro. Invece non è stato. Non l'hanno messo quando hanno programmato. Questo adesso sto trasmettendo, c'è scritto TX, capito? E poi invece cambia. Dovrebbe essere così, quando trasmetti che esce TX, quando ricevi dovrebbe uscire RX, invece non esce né una né l'altra. Qua il piccolino esce. Infatti invece no, di noi si bannunda. Ah, chissà, sa fai, vai da voi, esci. Buonasera, signora Bacchisi. Buonasera, signora Gio Maria, buonasera. E come te la gioca, eh? Infatti, va, fate e vai da voi, esci. Tore, già esci da voi. Ah, vabbè, da un po', Lucia, che mi la puttassai a me. No, qua già esce. TX, qua esce TX. Però quando bollo sparisce. Bollo, sentite la chiamata di quello che è bollo. E allora, che è? Chi si è rebusso, sei, Bacchito? Chi si è remulito, sei? E non a gara, si vede che stracco. E infatti, la sera noi sentiamo i voti, sentiamo, ha detto. Ci sente parecchio che siamo forti. Chi visto apparecchi acquisiti, infatti sul FLA c'è, però non appare, non appare, vuol dire che non deve apparire, deve fare. Sugli altri mi sembra che esce, dai. E a te Bacchi a 10? Esce, esce. Esce TX e poi TR. Cambia ricezione e modulazione. Infatti accerti, chiedi, accerti no. Per cui non ti preoccupare, so. Vuol dire che non deve uscire. Da te l'accorgi ugualmente che stai uscendo. Sì, voi sinistri, se no, peggio baedo. Ma se rimane guado. Ah, io c'ho sempre il rosmetro inserito, no? E per cui mi guardo sempre il rosmetro io. Vedo che il lago si muove, vuol dire che sta uscendo. Quando non si muove vuol dire che qualche cosa che non anda. Ah, da me ci sono le tacchette che vanno al massimo, quindi la si vede quando sta uscendo. Certe volte magari l'importante può essere, ci può essere, ma non ci può essere la radio. Può capitare anche queste cose. Non lo so. Io lo so solo dal coso che si vede, dalle tacchette che va al massimo vanno. E allora funzionerei attento. Tu attaccati la computer e te lo fai tu. E te lo fai uscire. E io non posso altro. Non so come di attaccarlo. È più facile a mano che il computer. Perché noi abbiamo provato un apparecchio. Cazzo, per tutta la sera siamo riusciti a farli sci. È fatto a mano e invece abbiamo avuto subito. Ma fregiamoci. Oh signori, bene, me lo dici, io chiudo che devo fare altre cose prima di cena, per cui ne approfitto, dai. Ci sentiamo domani, grazie, a chiacchierata. Saluto a Bacchi, già in casa, Bacchi, riprendi tu, dai, chiudo, a domani, buon proseguimento serata, ciao a te. Sì, ok, ciao Gianmarì, stammi bene, buona serata, ok, ci sentiamo magari domani, ciao Gianmarì, riprendi Bacchi. Sì, ho già salutato, ok, ci sentiamo Gianmarì, alle prossime, ciao. Ok, infatti, vi sento sopravvolati, ciao a tutti e due, dai, buon proseguimento serata. Saluto in casa. Sì, ciao Gianmaria, ciao, buona serata. Perché tu il sole, c'è questa reazione stasera? Sì, parecchio, adesso, ma poi se ne poco fa che stava piovendo a via Gaimando, ma vai a prendere a Arrivi. Sì, solo. Sì, è pochi buruso. Quindi la Dora ha già vinto, ma siamo stati in Serie D. Ha vinto, me l'ha fatto vedere adesso, ha vinto la Torres e adesso è in Serie D. Ho visto. Che cosa ha fatto? Casa ci ha fatto l'Ubia. Latte dolce. Anche con latte dolce già ci ha fatto. Anche lui, perché sono più o meno ha vinto. Andava, che te. Era tutta di passaggio. Sì, un passaggio che poi fondi a me. Ai, ha fatto un po' gare d'oreva. Ha fatto un po' prendere l'ombrello, però sta facendo l'arrivo tra due a casa. Faccio 50 metri, vengo a casa di Galeva, ho un po' di vino. Certo, bevo. Andemmo. Sì, male, non bene, male. Male andiamo. Quindi se ne si è alzato che era... Ma da giù non è passata l'acqua in campagna? In campagna non stava piovendo, nulla, era ripasciuto. Mi ha fatto verso le tre, verso le tre, con quattro gocce, e mo. Si hanno volato, e poi ha aumentato. Poi cioè, sono uscito, sono andato a Gianni, vicino di campagna, avevo fatto la chiacchierata con lui. Ecco perciò me ne vado. E ci mi dà un po' che mi fa in campagna. Certo. è già passata. Ha fatto un paio di droni a tutti. E boh. Ecco, devi pulirli, no? Deve pulire. No, dopo i rubini non sono buoni. La pandemia, è già per fare dei gubbi chiusi, sciupitelli, allora, poi ci siamo rotti. Andiamo. Andiamo. Con i pini di piombo. Come bisogna fare, Bacchi? Sì, di piombo bisogna andare. Grazie, non ci sei sentito? Ieri l'ho sentito, stavamo parlando ieri. Buongiorno, non sento la voce di Graziano. Su PMR ieri l'ho sentito. Si va in PMR? Ha detto non ha gana di entrare di PGS a piazza a tutti. Si deve comprare, non ci ho fatto la mia mia. Infatti, è una cosa piccolina e sincera. Anche sul collo, sul radiatore, non è che si vede questo qua. Ma la moglie ha detto che non può punire nulla in mezzo al vivo. A me è lungo. Ha detto che non può nulla in mezzo al vivo. Ha detto, mamma, deve fare un pacchetto sopra, armoni sopra. Anche la corrente è stata, io non so che... Non lo so come è rincato. Ehi, vabbè, ognuno fa il suo segreto. No, non è giusto. Queste cose non le ammetto proprio. Guarda, zero un poco zero. Nuvoloso mattina, Bacchi, nuvoloso pomeriggio, nuvoloso la sera. È notte schiarita. Acqua in vista. Niente acqua, solo nuvoloso. Vabbè, domani prendiamoci le nuvole. Domani nuvole, dopo domani nuvole. Basta che faccia appena settimana bella. Perché mercoledì devo andare in clinica. Vabbè. Cosa devi fare? Qualcosa là? Ma io non lo so da controllare. Prelievo ti devono fare. Tagliare un pezzo fuori il prelievo per analizzare. Il pezzaretto dei bidi mi devi negare, da. La famosa pezzaretto dei bidi, 12 punti. Ma cosa è un prelevato? Dove è un prelevato? Mi faccio uno spuntino. Vuol dire che subito che hanno gavato, vuol dire che hanno impresso. Basta di viro, una pelle di viro a viso a chi ci andiamo male. Non ho più di lasciare che mangiare di buono, è buono. E noi con lui ci vado, vediamo un po' cosa stiamo tirando fuori. C'è un momento che ti ascolti, ci stai lì, a me la mia città in pace. E a me avevano fatto una cosa del genere, mi ha ricavato un pezzarillo, poi mi hanno chiamato dopo di due mesi, ma è ora da fare la cosa, hai detto questa è l'ultima volta che me l'ho fatto, mi ha detto adesso è fatta la cosa giusta perché non vedo più. E così la biopsia, ho fatto due volte la biopsia. Mi trattano così, ma se non prendessi, da detto la prima volta, è tutta la prima volta mi fa. Rimani asciuttato, deve rimanere. Io sono andato con un dottore, poi ho domandato a l'altro, mi ha detto tutte le due le cose che vuoi, ma quindi non gli ho mai dato la voce che andando tranquillo, tranquillo. Fino a un certo punto poi bisogna cominciare a preoccuparsi delle cose. E vabbè, io mi ha svegliato anche con una filosofia che a noi dico sì, e mai si vediamo. Siamo con te la parte del manico, come andare, se siamo di via, non ci siamo per la giambi. Sì, ma a me ve l'ha giudito, anche questo del diabete, ve l'ha giudito, che mi ha giudicato sempre la cosa. La mamma ha detto a me, da marzo a novembre. Non mi fa che sono lì, se la prossima sono quel giorno. Ha dato una di visita per il dojo e me l'ha data per il 4 ottobre, me l'hanno data. Adesso dice che me l'ha data anni per giugno, invece per giugno non mi ha dato nulla, me l'ha data a ottobre, me l'ha data questa visita. Ha cosa di controllare il collo, non so, buco. Infatti le cose l'ho chiamato dottore, ma detto va bene, quando la fa me lo porta direttamente quando viene a passare la visita. Ci sentiamo a domani, se tutto va bene. Ciao Bacchi. Ancora ciao. Attenzione, Napoli fa chiamata. Napoli chiama. Attenzione Napoli, si ascolti la nord della Sardegna. Si ascolti il nord della Sardegna.